la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, qui 16:30 primi e 33 secondi dagli studi di Milano, assolata oggi come ieri. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Vi ricorda l'indirizzo della trasmissione, la versione di Oscar, @24.it. E vi dice subito che parliamo oggi, come la stragrande maggioranza della programmazione sarà fino alle 21 e poi dalle 21 in diretta tutta la notte, con una lunga diretta per seguire via via i risultati man mano che si manifesteranno negli Stati Uniti, dedicata appunto alle elezioni presidenziali americane e gli speciali, quindi la diretta speciale che parte dalle 21 arriva fino a domani mattina ininterrottamente, poi alle 6:30 riprende Alessandro Milan, come sapete, alle 8 raggiungo anch'io per Attenti a noi due, poi di nuovo Minori, avete sentito il promo, alle 9 mattina anche lui per i primi commenti di un voto che si sarà definito. Nell'arco della notte vedremo intorno a che ora, perché sapete oramai, immagino tutti, ma la maggior parte di voi, che la questione è appesa al risultato di alcuni stati, quelli che tradizionalmente di elezione in elezione possono cambiare il segno della scelta prevalente agli elettori, gli swing states, gli stati ballerini, mentre altri, la maggioranza, di solito storicamente hanno un voto consolidato verso il candidato repubblicano o il candidato democratico. Allora, io dico solo quattro cose prima di cominciare e poi iniziare con i nostri ospiti. Il modulo prevalente dei giornali italiani, ma anche internazionali, è stato quello di giudicare, primo punto, questa come una delle peggiori, se non la peggiore gara presidenziale americana. Abbiamo tutti lo sguardo appiattito sul presente, però, perché le elezioni presidenziali americane nella storia hanno riservato, non proprio rarissimamente, candidati non un granché, lo spettro di affari incombenti e confronti tra candidati non di primissimo livello. Quindi, innanzitutto, certo, seconda osservazione, Trump ha portato in questa campagna toni, temi, modalità, incidenti, giudizi estremi totalmente anomali rispetto alla storia delle presidenziali americane, mentre Hillary, come sapete, fin dall'inizio delle primarie non c'è mai stata una contestazione così forte, così pericolosa come quella portata da Sanders, proprio perché Hillary ha dei difetti costitutivi, cioè la sua connessione con il potere, molti sospetti sul passato, questo buco nero delle sue mail sottratte al server del Dipartimento di Stato, insomma i suoi difetti sono evidenti e hanno portato a delle primarie molto aperte con una parte di sinistra dichiarata socialista dell'elettorato democratico che aveva un candidato che poi però si è comportato da galantuomo, bisogna riconoscerglielo. Ma terza osservazione, in realtà l'anomalia Trump è un'anomalia che a mio personalissimo giudizio deriva, è l'espressione, ma non è l'attore innovatore, è l'espressione di una crisi profondissima a questo punto dell'establishment del Partito Repubblicano, che non ha capito i 10 anni precedenti in cui di volta in volta alle elezioni del rinnovo parziale del Congresso e del Senato gli elettori andavano in un'altra direzione rispetto all'establishment repubblicano, con i candidati eletti su posizioni molto più radicali, quella dei Tea Parties. Ancora una volta, fine della terza osservazione, purtroppo l'establishment repubblicano ha creduto di poter giocare la carta delle presidenziali controllandola e si è infranto contro un muro, perché i 16 candidati, 16 contrapposti a Trump, hanno a quel punto dato forza a Trump, un'espressione di un elettorato estraneo all'establishment, incazzato, di basso reddito, fuori dalla ripresa americana, con toni estremi contro i trattati internazionali del libero commercio e sugli immigrati. Ecco, quindi è l'espressione Trump, non è l'attore e il motore. Quarto, e ho finito, attenti però a capirla meglio l'America, perché io sono convinto che se, allora che vi dico due numeri su come sta la politica a livello territoriale in America, molti di voi non li conoscono e forse non ci credono neanche, ma attualmente nei 50 stati americani, pensate, 31 hanno governatori repubblicani e in 31 stati anche i repubblicani controllano entrambe le camere del potere legislativo a livello dei singoli stati. In 23 i repubblicani hanno sia il governatore che il controllo delle due camere del potere legislativo a livello statale. Pensate che i democratici solo in 7 hanno tutte e tre le cose. Quindi attenzione a credere che sia tutto da una parte il voto. Quello che è certo, e ho concluso, è che anche in caso di elezione di Trump si troverebbe un congresso molto probabilmente capace di frenarlo in quasi tutto di ciò che più duro ha detto in campagna elettorale, a cominciare dai trattati del commercio internazionale. Sapete che vuole far cambiare i rapporti con i 5 paesi su cui gli Stati Uniti ha la più forte sbilancio dei pagamenti, a cominciare dalla Cina, ma poi il Messico, la Corea del Sud, il Giappone e così via. E lo stesso potrebbe valere per la profondità dei suoi interventi fiscali dichiarati in campagna elettorale, con fortissimi sgravi rispetto alla liquidità marginale oggi, con un abbassamento delle imposte, con rischio di creare molto deficit, ma anche in quel caso il congresso gli sarebbe contrario più che favorevole. La stessa cosa non avviene in caso di vittoria di Hillary, che avrebbe molto più mano libera per realizzare il suo programma, anche se bisogna vedere, perché si eleggono anche diverse decine di senatori, quindi bisognerà vedere che segno prende complessivamente le elezioni dei senatori. Ecco, io mi limito a dire queste quattro cose e cominciamo con il nostro primo ospite. Noi abbiamo ospiti due che autori di libri dedicati a Trump, cioè la novità comunque di questa campagna elettorale. Il primo è Mattia Ferraresi, lo abbiamo già avuto ospite, corrispondente per il Foglio degli Stati Uniti. Il libro che ha scritto si intitola La febbre di Trump, un fenomeno americano. Grazie Mattia di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Non ti chiedo pronostici, li vedremo a questo punto. Quello che ti chiedo è di cominciare con un giudizio. Tu condividi il fatto che sia una crisi dell'establishment repubblicano più che Trump, l'attore che ha modificato le coordinate di questa campagna elettorale? Perché altrimenti, di fronte ai difetti di Hillary, un candidato repubblicano diverso avrebbe avuto molte possibilità in più. Tu che dici? La condivido in pieno. L'approfondisco pure, mi sembra addirittura una crisi che definirei culturale e antropologica dell'uomo repubblicano americano. Nella fattispecie l'establishment trovo che si sia addormentata con la fine dell'era Reagan, pensando, illudendosi di poter riproporre uno schema oliato e consolidato all'infinito, cambiando semplicemente qualche faccia e qualche numero e aggiornandosi su alcune cose, e si è ritrovato un giorno a dover realizzare che non sapeva più chi era, ma cosa ancora più grave, ha realizzato, io credo che sia questa una delle chiavi di questa elezione, ha realizzato che non sa chi è il suo elettore, e quindi si è trovato in una profonda crisi identitaria che è duplice: è l'identità dell'establishment, ma è anche l'identità del popolo repubblicano che guarda in faccia ai suoi rappresentanti e non li riconosce, non sa nemmeno chi sono, non sa che cosa fanno nella vita, non sa in che contesto storico vivono, da dove traggono i loro valori, i loro significati e i modi in cui conducono l'esistenza. Ecco, io per cui non solo sono d'accordo, ma faccio anche un passo in più, direi, di approfondimento e di aumentando anche la gravità del problema, evidentemente. Insomma, big corporation tutte per Hillary, la grande finanza tutta per Hillary, invece magari operai a bassissimo reddito e disoccupati che hanno perso la Rust Belt e le loro occupazioni, che sono enlisted per andare a votare per Trump come non si era mai visto, o quasi, nella storia quantomeno recente, quella del Partito Repubblicano. Questo dice un mix completamente misconosciuto dal vecchio establishment, che pensava, avendo i PACs in mano, cioè lo strumento attraverso cui si finanzia la politica al di là dei finanziamenti diretti, che hanno un tetto molto più basso ai candidati, quelli attraverso i PACs sono indipendenti in teoria, decidono loro su dove mettere i soldi, ma a quel punto hanno limiti altissimi, quindi è di lì che passa il più dei soldi. L'establishment credeva di controllare quel vecchio canale, ma tutte le sue carte sono finita per aria. È assolutamente così. Io approfondisco e aggiungo un aspetto. L'aspetto della working class impoverita, arrabbiata e tutto quello che abbiamo detto è assolutamente vero ed è evidente, i numeri ce lo raccontano, le storie ce lo raccontano. Trovo che abbiamo fatto, do la colpa anche a me stesso, in quanto giornalista, abbiamo fatto un po' l'errore di fare una parodia dell'elettore di Trump come esclusivamente un colletto blu della Rust Belt deindustrializzata e impoverita. E non è esclusivamente questo, anche perché la Rust Belt, come tu sai molto meglio di me, è in crisi dagli anni 70. Esatto. E la stagnazione dei, degli stipendi è dagli anni Ottanta che non, gli stipendi americani non crescono, non è un fenomeno nuovo. Il Reagan Democrat, ricorderemo, era stato esattamente questo, cioè Reagan era stato capace di andare a pescare in quel bacino lì tradizionalmente democratico, tradizionalmente sindacalizzato. L'elettore medio di Trump, per quello che ne sappiamo, ha uno stipendio di $75,000 l'anno, che è superiore alla media nazionale, è superiore a quello degli elettori di Hillary. Cioè, quello che voglio dire è, non è esclusivamente un fenomeno working class, è anche una middle class che più che in crisi economica è in crisi di identità. Anche se le due cose si evidentemente si alimentano e dialogano l'una con l'altra. Quelli che conosco da lungo tempo, diciamo dell'establishment, ma fino a un certo punto, un nome per tutti, no? Grover Norquist, che da anni è alla testa di American for Tax Reform, uno dei forum che ogni settimana riunisce tutti i parlamentari repubblicani per dire: oh, sulle tasse che cavolo state facendo, fate un pledge, un giuramento pubblico e attenetevi alla lotta allo stato affamatore di tasse. Però dice, è vero, con Trump abbiamo avuto un candidato che in realtà la pensa all'opposto e dice all'opposto, quasi radicalmente tutto il contrario di quello a cui eravamo abituati da Reagan in avanti. Bush era un caso a parte, a dire la verità. E però a questo punto, dice lui, ci sarà una lunga distruzione, perché comunque sia l'esito del presidenziale, ma lui dice tanto Trump perde, ma il problema è che non è affatto detto che in 4 anni i repubblicani possano rimettere in piedi un'ipotesi. Tu dici che dei diversi nomi che sono scornati hanno perso con Trump nelle primarie, i vari Ted Cruz, Marco Rubio e così via, rimangono feriti a morte anche loro o qualcuno di loro può essere un futuro? Io credo che, diciamo, se fossi un maggiorente o un elettore, un maggiorente del Partito Repubblicano, mi augurerei che fossero feriti a morte. Per questo semplice motivo, una sconfitta rovinosa di Trump questa notte, che potrebbe accadere, ma forse anche una sconfitta rovinosa, io trovo che potrebbe un po' alimentare l'illusione che Trump sia stato solo una grande sbandata, una piccola anomalia, un raffreddore del sistema. Sì, un pazzo, sciovinista, sessista, un maniaco, insomma, un asteroide. Esattamente, un asteroide. Io credo che questo sia il peggiore dei mali possibili per i repubblicani, perché consentirebbe loro di non vedere ciò che è Trump, ma ciò che è il fenomeno di Trump ha da dire, più che, come hai detto tu, più che Trump in sé, che è una piccola pedina in questa partita, impedirebbe loro di fronteggiare e di affrontare un problema che va alla radice. Io credo che, e spero, nel senso, da un punto di vista di un elettore repubblicano, potrei sperare invece di un momento di distruzione creatrice, se posso permettermi di scomodare Schumpeter. Andiamo un secondo invece alla accreditata vincitrice a questo punto, Hillary Clinton, Rodham io preferisco più che Clinton, ma da questo punto di vista, una volta proclamata la sua vittoria e proclamato il risultato, la scia delle inchieste e degli scandali, che minaccia rappresenta per l'avvio della sua presidenza, l'espletamento pieno delle sue facoltà di presidente? Aspetta che adesso riavvicinati, ricomincia. Credo che sia sostanzialmente coperta da questo aspetto e al riparo. E alla fine il grande pasticcio dell'FBI, che dice che riapre un'inchiesta, poi si scopre che non c'è nulla di fatto e poi di nuovo si riapre, alla fine la favorisce, certo. Pur avendole probabilmente fatto perdere qualche punto, averle fatto prendere una flessione, aver creato un pasticcio interno, ma a questo punto che situazione abbiamo? L'FBI che ha testimoniato in tutti i modi, che ha fatto di tutto per indagarla, per andare a frugare in tutte le cose, e non ha trovato nulla, lo ha detto per tempo, anche se in modo gospo e pubblico e con una rivelazione al congresso abbastanza assurda da un punto di vista procedurale. Ma nel lungo periodo, soprattutto nell'immediato dopo elezioni, se vince, questo mette Hillary, io credo, molto al sicuro da questo punto di vista sulla questione delle mail. Rimangono tutta un'altra serie di strascichi che sono legati a una posizione di establishment che lei ha in maniera eminente, che tanti altri hanno avuto e che in questo momento storico credo attiri a sé lo scrutinio, attira a sé il sospetto, c'è una questione sistemica, questa non gliela toglie nessuno. sui casi specifici io credo che sia abbastanza al riparo. Veniamo a un'ultima questione, visto che il fattore Putin ha contato tantissimo, come è evidente, insomma, la proiezione negli affari mondiali della Russia di Putin è enormemente cresciuta in questi ultimi anni. Non solo per la faccenda siriana, per il fatto che, come non è avvenuto mai durante i decenni della guerra fredda, oramai ha gli stivali e gli aerei sul campo in Medio Oriente, ed è quello che darà le carte nell'equilibrio tra le diverse egemonie dell'area, quella di Teheran, quella sunnita di Erdogan autoritario che si è liberato le mani pure lui, l'Egitto e così via. Ma al di là di questo, la preoccupazione di molti in Europa con Hillary, svolta bellica, altissima tensione in Europa sulla frontiera di sicurezza, i paesi baltici con Putin e così via, è un po' esagerata o che fondamento ha secondo te? Ma io guarderei agli ultimi 8 anni che sono stati di un presidente che ha sostanzialmente la stessa visione di Hillary in politica estera, sostanzialmente, ci sono differenze, diciamo, tattico-strategiche, ma non differenze di impostazione, e io trovo che Obama, come ha condotto la politica estera, sia stato un po' l'usciere, o abbia agevolato il mondo così come lo stiamo vedendo adesso, cioè un mondo in frammentazione e dove il disimpegno americano è il dato fondamentale per capire gli equilibri. E Putin è io credo, la storia, l'ascesa di Putin negli ultimi anni è la storia di un vuoto che viene riempito, certo, per horror vacui, non la storia di un grande... Però tu dici continua questa impostazione con Hillary, a differenza di quello che dicono molti. Io trovo che per ora le prove che abbiamo sono di una visione liberale del mondo e internazionalista, che però alla prova dei fatti si è inceppata, alla prova dei fatti si è ritirata, ha detto, questo però diciamola tutta anche dall'altro lato, era anche un po' la grande questione di Reagan, no? Reagan aveva una grande visione internazionalista, una grande visione del ruolo dell'America nel mondo, che era la città sulla collina, quindi poi in politica estera, a parte evidentemente il crollo dell'Unione Sovietica, che era frutto di tanti processi, è un po' più complicata di così. Era un realista. È stato estremamente cauto e realista quando si è trattato di andare a Grenada, insomma, credo che abbia fatto 3 giorni di guerra in 8 anni di presidenza. Sì, quando poi si è trattato di mettere le mani. Io trovo che in questo vada letta anche Hillary, che adesso ha un bisogno molto importante di attirare a sé una parte dell'establishment di destra, che vuole una politica più aggressiva, che chiede un impegno, che vuole un mondo a trazione americana, e credo che diciamo, poi quando con le mani sul volante uno si comporta sempre in modo diverso. Sì, diversamente da quello che ha detto in campagna elettorale. Io vediamo una delle differenze di fondo. Io intanto ringrazio Mattia Ferraresi, e che ovviamente l'ascesa di Trump prometteva di spazzare via Obamacare, e questo spiega perché il presidente Obama nell'ultima parte della campagna abbia dato una mano a Hillary, malgrado che 4 anni fa, insomma, fosse di tutt'altro segno il rapporto tra i due. Andiamo al secondo ospite dopo il minuto di traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta la versione di Oscar. Allora, molti messaggi da parte vostra. Alcuni dicono: cosa proverà quando si siederà sulla sedia del marito? L'hanno cambiata. Questo vi do la risposta facile, quindi non c'è alcun rapporto da questo punto di vista, se non che il luogo è lo stesso, come ovvio. Secondo, molti di voi dicono: voteremmo per Trump per il solo fatto che tutta la finanza sta con Hillary. Il problema è quanta parte dell'elettorato tradizionale a cui fa riferimento Hillary, cioè i giovani che saranno mobilitati per Obama, anche se più nella prima elezione che nella riconferma, gli ispanici e così via, saranno fedeli in questa scelta, o quanta parte di quelli che invece tifavano Sanders non andranno a votare. Lo vedremo questa notte da questo punto di vista. Molti di voi dicono viva Putin, ma questo io l'ho capito nell'arco dei mesi che Putin ha molti sostenitori nel nostro paese e non solo nel nostro paese, a scindere poi da cosa votate, da quello che capiscono i vostri commenti. E ci ha raggiunto Andrew Spanhaus, che è un giornalista e analista americano, autore di un altro libro per l'edizione Mimesis, da un titolo impegnativo in queste ultime ore, perché il libro che ha scritto Andrew si intitola Perché vince Trump. Andrew, ma il titolo vale ancora? Il titolo in realtà è una spiegazione. Nel libro stesso dico che è difficile in realtà che vincerà Trump, ma che Trump vince perché c'è una rivolta degli elettori e quindi questa campagna elettorale sia tra Sanders di Cruz ha dato voce a un malcontento nella popolazione americana molto forte, molto maggiore di quanto gli establishment da una parte e dall'altra, ma devo dire soprattutto i repubblicani avessero capito, se posso dire la verità, ma anche i democratici, di fronte alla forza che il fenomeno Sanders ha avuto nelle primarie, sono rimasti abbastanza allibiti a un certo punto. Assolutamente, questi si sono candidati contro il partito, principalmente sul lato repubblicano, cioè il partito repubblicano per decenni ha fatto politica sulla base di temi ideologici, ai cristiani, ai cristiani di destra, sui temi del matrimonio gay, un'idea molto vaga di meno Stato, meno tasse. Invece Donald Trump e Ted Cruz in parte hanno capito che facendo una campagna elettorale a favore delle pensioni di Social Security, contro i grandi trattati commerciali e contro le guerre continue, avrebbero trovato il consenso della base. Questo significa che se anche vincerà, vediamo stanotte, la Hillary Rodham, in realtà dovrà tenere conto di questo fenomeno potente che si è dispiegato nel suo partito, anche se poi ha vinto le primarie, ma nel fenomeno Trump. Cioè, quindi, un atteggiamento di chiusura, come è stata alla fine della campagna elettorale anche lei, sui trattati del libero commercio, protezionismo. Sulle tasse non lo so, perché la visione era diversa la campagna elettorale, però lo vedremo anche in una Hillary eletta tutto questo, secondo te? Secondo me questo è il punto fondamentale di queste elezioni, che anche se sarà eletta Hillary Clinton dovrà tenere conto di questa rivolta degli elettori, ed è in realtà un tema per tutto il mondo transatlantico. Certo, perché poi è la stessa ragione di Brexit, sia pure nella differenza delle culture, del rapporto problematico tra la Gran Bretagna e l'Europa e così via, però è il fenomeno che in Europa porta elettorati a fare scelte che poi le élite, i giornali dipingono come populiste, eccetera, però ci sono tratti comuni. Assolutamente, quindi non si può ignorare una grossa fetta della popolazione, forse anche la metà della popolazione, che non sente la crescita economica che vede la parte più alta, non sente i benefici della globalizzazione, vede i problemi, si sente poco sicura e quindi dice: questi qua, le istituzioni, i politici, l'elite che abbiamo adesso, non ce la facciamo più, mandiamo un grande andate a quel paese, a questi con le elezioni. Se dovesse vincere, ipotizziamo, Trump, vedremmo un presidente che fa davvero le cose che ha detto con quei toni e diventa anche un po' rischioso per l'equilibrio mondiale, o sarebbe un presidente che a quel punto con le mani sul volante, come diceva prima Mattia Ferrarese, come anche nel caso di Clinton, ma anche lui si comporterebbe e parlerebbe in maniera diversa, secondo te? Penso che non farebbe enormi cambiamenti immediatamente, perché le istituzioni ci sono e hanno un'influenza su quello che è possibile fare. L'abbiamo visto con Obama, anche le cose che voleva fare ci è voluto molto tempo. Però Trump non mi spaventa in politica estera, anzi, mi spaventa di più Hillary Clinton, perché i neoconservatori sono con lei. Sono con lei, lui. Sì. Lui è questo, i giornali italiani non lo hanno spiegato bene, che i neoconservatori accusati per tanti anni di essere i bellicisti dell'Iraq in realtà tifano tutti per Hillary e votano Hillary, non votano più repubblicano, tutti quanti, quasi senza eccezioni. Comunque ci sentiremo ancora nei prossimi giorni anche con Andrew Spannaus. Voi controllate su Radio 24 e questa notte in diretta dalle 21 fino a domani mattina, orario inoltrato dalla mattinata, noi vi serviamo con servizi, collegamenti, man mano che le novità si profileranno noi saremo qui a raccontarvele.